Thank you. sottratto amor io dovrei al tuo amor la sua meccidil ma sappi per se o sappi che di mia libertà questi che il cielo mi lascia a tua mercè miseria avanzi rendono la mia vita e dello stesso morir meno gradita nulla dunque tu prezzi del mio provido amor le prove e il merito gratitudine e vieta e che fia mai che tenda nuove insidie alla mia pace una fiamma vivace che d'alleso gentil nel cor m'accese più misera mi fa di quel che fu spietata fammi a lui che immerso in mille oggetti nulla cura il tuo amore o non lo sa Thank you. Thank you. Fuori il giuramento

questa sorte tanto m'affligge tanto, e se ben tu non vedi quest'occhio a lacrimar, ne scopri il pianto. Il tuo Perseo fedel, che ben lo merta, io porto. Almeno non partire sì presto, odi, pria che tu parta. Quando caro mi sei, quanto mi piaci. Se da me speriamo, la speranza è un delirio. Che rollo in questa guisa, l'amor mio tu disprezzi. Bella, con tal vigore, nella mia libertà servo il piacere. Piacere che troppo è fiero, a quest'olmo d'aliso, chi che vive. Ma piacere che mi giova. A dirmi sento, di sdegno e di furore. Te lo dissi ancora, non voglio amore. Oh,